Gli alberghi di rozzi pastori, solo ardito che scorro col piede. Solo ardito, solo ardito che scorro col piede, che scorro col piede. Tempo per te.